Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, è arrivato il nostro momento. Parliamo di salute, andiamo a sentire allora i temi del giorno. Colon, le regole per proteggerlo, gli esami per controllarlo. Dottore, mio figlio mi sembra piccolo, che dice? Socializza e ti sentirai meglio. Colon, questo è il nostro protagonista di oggi, è la parte terminale del nostro intestino, è disposta un po' come una sorta di cornice intorno alla porzione di intestino, quella che viene chiamata intestino tenue perché è più sottile. Il colon, che viene anche detto intestino crasso, è lungo, pensate, circa 1,5 metri, e come tutte le parti del nostro organismo può ammalarsi. Il colon si può anche infiammare e diventare sede di polipi e di formazioni neoplastiche. E a proposito di queste, delle formazioni neoplastiche, il cancro del colon ha ancora dei numeri che fanno paura. Ma è importante ricordare che la diagnosi precoce permette di affrontare e curare questo tumore con altissime percentuali di guarigione. Tanti esperti oggi ci aiuteranno a raccogliere le informazioni utili per fare una corretta prevenzione. Naturalmente dovrete aiutarli voi da casa con i vostri interventi e le vostre telefonate, le vostre domande, che vi ricordo potete già fare sin d'ora all'800 24 0024, oppure potete mandarci dei messaggi al 349 238 6666. In linea con noi oggi abbiamo il dottor Emanuele Meroni. Buongiorno dottore, bentornato. Grazie, bentrovati a tutti. Direttore della struttura complessa di endoscopia interdisciplinare dell'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova. E qua in studio con me, pronto a festeggiare una data importante per il suo giornale, Alessandro Pellizzari, ogni mese viene a trovarci, vice caporedattore di Starbene, che quest'anno compie 30 anni. 30 anni di edicola, 17 anni per me, quindi io sono ancora minorenne. Sì. E grande copertina doppia, tutta una serie di iniziative, come ogni compleanno che si rispetti abbiamo previsto anche dei regali per i lettori, quindi andate a vedere che sorprese ci sono. E soprattutto nel numero di Starbene, Alessandro Pellizzari è qui, ricordiamo volentieri il compleanno, anche perché c'è uno spazio dedicato, sì, al tema che trattiamo noi oggi, al femminile. Esatto, perché noi siamo un femminile di salute e purtroppo il colon è diventato il secondo tumore più diffuso nelle donne dopo il seno. Dottor Meroni, quindi mi piacerebbe che lei ci aiutasse a sottolineare che la prevenzione non deve fare distinzioni di sesso. Perfettamente, tra l'altro ha perfettamente ragione dottor Pellizzari, perché nella donna sicuramente è diventato il secondo per frequenza dopo i tumori del seno, così come nell'uomo è secondo al tumore del polmone, e come diceva lei i dati fanno ancora abbastanza paura. I dati che l'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, fornisce ci indicano che ogni anno vengono diagnosticati circa 20.000 casi, sì, di tumore intestinale negli uomini e un 17 nella popolazione femminile. Grosso modo calcoliamo che ogni anno, quindi sono 30.000 i nuovi casi diagnosticati, e a me 15.000 ancora le persone che perdiamo per questa malattia. Quindi è un argomento molto importante, non se ne parla mai abbastanza. Noi oggi cercheremo appunto di informare i nostri ascoltatori sull'importanza della prevenzione, dottor Meroni, e dei controlli, vero? Giustissimo, prevenzione, ma a tutto campo, si va anche sulla dieta, perché il tumore del colon retto è quello in cui sembra evidenziarsi più chiaramente la correlazione tra fattori ambientali e fattori genetici, perché comunque è una malattia che in parte ha la sua ragione d'essere nei fattori genetici. Sì. Per quanto riguarda la dieta, è banale, ma le osservazioni non sono mai banali, si pensi che nelle popolazioni vegetariane l'incidenza del cancro colorettale è ridotta di circa il 30%, quindi anche la dieta ha un suo ruolo. Certo, la familiarità, e qui ci riallacciamo al discorso della genetica, ha un ruolo anche importante. Chi ha in famiglia uno o più persone che hanno avuto questo problema, ha avuto un tumore all'intestino, corre un rischio che è 2 o 3 volte maggiore rispetto a quello della popolazione generale. Dottor Meroni, il nostro intestino i segnali ce li manda, ma non sempre sono così chiari da spingerci a considerarli con attenzione, quindi a parlarne con il nostro medico curante. Pensiamo, mi vengono in mente, il dolore addominale, potrebbe magari essere solo, diciamo, ma solamente ho preso freddo, ho digerito male, oppure pensiamo alla stitichezza, Alessandro, o al colon irritabile che è diventato di moda, ecco, oppure magari a tutte quelle piccole variazioni che abbiamo anche a livello proprio addominale, crampi o alle feci. Dottor Meroni, ci aiuta a individuare, noi abbiamo parlato di familiarità, ma i segnali da non trascurare, che cosa dobbiamo tenere sotto controllo? Giustissimo, senza fare allarmismo, nel senso che poi ogni paziente dovrà valutare anche col proprio medico curante quanto peso, quanta importanza dare a questi sintomi, a questi segnali, però grosso modo sono o modificazioni persistenti delle abitudini intestinali, vale a dire una persona che da normale improvvisamente diventa stitica o diarroica o che alterna l'uno all'altro, e qui si aprirebbe un capitolo sul colon irritabile che, come dicevo, Tor Pellizzari è diventato di moda come argomento, oppure sangue che si vede a occhio nudo nelle feci o muco che è tipo gelatina, materiale biancastro, soprattutto se si presenta con una certa ripetitività. Oppure quando il paziente riferisce una sensazione di ingombro rettale che continua anche dopo l'evacuazione, come se non riuscisse a liberarsi completamente. Di qualcosa che ancora c'è. Esattamente, possono essere emorroidi congesti, non vorrei drammatizzare, ma comunque non va trascurato. Ecco, dottore, una delle cose che ci fanno notare le nostre lettrici quando ci scrivono a star bene è proprio il fatto che noi diciamo attenzione al sangue, perdite di sangue, tracce di sangue, sangue nelle feci. Dico, ma io soffro di emorroidi, che è un problema molto diffuso, per fortuna la maggior parte dei casi così, però la diagnosi sul sangue, come dire, soprattutto nelle donne, passa un po' inosservata, ecco, ci sono anche un po' abituate, ecco. Questo può essere un problema. Dottor nella Meroni, diagnosi. Anche a lei magari le sue pazienti riferiscono questa leggerezza. Certo. È un sintomo che però non deve essere mai trascurato. Ora, è chiaro che non è che a tutti i pazienti o tutte le pazienti che riferiscono per la prima volta un episodio di sanguinamento si deve consigliare un approccio invasivo, no? Un esame endoscopico. Però comunque sono sintomi che non vanno trascurati. Si può provare ovviamente con una visita per vedere se si sente una congestione emorroidaria, tenere sotto stretto controllo, curarla come se, però a quel punto veramente considerare che già un campanellino è suonato, quindi non perdere di vista la cosa, e devo dire che un atteggiamento molto corretto adesso dei chirurghi che operano i pazienti di emorroidi è comunque quello di far fare un'esplorazione completa del grosso intestino, proprio per escludere la concomitanza di altre problematiche. Professore, dottor Meroni, mi scusi, proviamo allora a tratteggiare, alla luce di quello che lei ci ha detto sinora, l'identikit della persona, non vorrei dire più a rischio, ma che deve essere particolarmente attenta? Già, assolutamente sì. Allora, l'identikit potrebbe essere una foto che ritrae ognuno di noi, sì. Questo già, con diverse sfumature. Tutti noi, per il fatto stesso di essere chi più chi meno, vicini ai 50 anni, comunque intorno ai 50 anni, abbiamo un rischio generico del 6% di ammalarci di tumore del colon retto, cioè a dire l'80% della popolazione che è affetta da tumore intestinale soffre di questo tumore cosiddetto sporadico, ed è un rischio che è legato per lo più all'età, sì. E aumenta all'aumentare con l'età, in parte legato anche alla presenza di polipi. Si consideri che sopra i 60 anni una persona su 4, quindi il 25%, ha almeno un polipo, e i polipi hanno un loro ruolo poi nella formazione dei tumori. Entriamo poi nel capitolo della familiarità e poi ancora più addentro della ereditarietà. Sì. C'è un 15% di persone che hanno familiari, e allora devono stare molto attenti, perché soprattutto se uno o più dei nostri familiari ha avuto un tumore, soprattutto prima dei 60 anni, sì, dobbiamo stare in guardia, perché il rischio di tumore colorettale, da quel 6% di cui parlavo prima, può raddoppiare o triplicare, così come il rischio è aumentato nei pazienti che da molti anni soffrono di alcune malattie infiammatorie, tipo la colite ulcerosa, sì, o pazienti che hanno già tolto dei polipi o addirittura hanno avuto già una asportazione di tumore. Quindi ognuno rappresenta un rischio per se stesso anche. Poi c'è invece una piccola fetta, il 5% della popolazione, in cui il problema non è solo familiare, ma proprio ereditario. Sono veramente un gruppo molto particolare di pazienti. Dottore, mi scusi, ho bisogno che lei ci spieghi però questa differenza, perché talvolta la familiarità e ereditarietà vengono utilizzate come sinonimi. Giustissimo. sono e non lo sono. E non lo sono, ci spiega perché... L'ereditarietà in questo caso è legata alla precisa, al preciso ruolo di alcune mutazioni del cromosoma che sono intervenute, mutazioni che noi possiamo identificare, studiare. E questo è un argomento specifico proprio di alcuni centri, centri tumori ereditari, come c'è qui da noi a Genova, l'Istituto Tumori o l'Istituto Tumori di Milano, dove seguiamo proprio delle famiglie, si traccia il pedigree di queste persone, l'albero genealogico. Quando si identifica una persona si cerca di capire, in base un po' alla storia della famiglia, alla storia personale, alla giovane età di insorgenza, se si tratta di qualche mutazione, e a questo punto si ricostruisce l'albero genealogico. In queste persone si va direttamente a cercare la mutazione, perché il ruolo è molto preciso, un po' come quella piccola fetta di tumori della mammella in cui si sa qual è la mutazione genica. Negli altri casi si dice familiarità, cioè non c'è nessuna mutazione, nessun gene impazzito che possa essere identificato con precisione, ma non si può trascurare il fatto che se due o più persone della stessa famiglia hanno avuto il problema, qualche cosa di genetico ci deve essere. Allora, se il vostro colon vi sta a cuore, chiamateci, parleremo dei controlli da fare, parleremo dell'importanza della dieta sicuramente, affronteremo il discorso dei polipi. Il dottor Meroni ha sottolineato che a partire da una certa età una persona su quattro può trovare, durante una colonscopia immagino, dei polipi. Cercheremo di vederci chiaro. 824 0024. Il dottor Meroni rimane con noi sino a mezzogiorno. Arrivano già molti messaggi a cui risponderemo tra poco, e le vostre chiamate che orienteranno un po' la nostra chiacchierata. In studio con me Alessandro Pellizzari, 349 238 6666, se invece preferite scriverci un messaggio. Una mela al giorno. Cambiamo decisamente argomento, parliamo della statura dei nostri bambini, e nonostante negli ultimi tempi si assista a un aumento dell'altezza media, basta guardare i bambini, sembrano nettamente più alti di quelle delle generazioni precedenti. L'altezza però, come il peso, dipendono fondamentalmente dalle caratteristiche ereditate dai genitori, oltre che dalle condizioni di vita, ambientali, igieniche, affettive. Bene, l'altezza in modo particolare è influenzata dalla predisposizione genetica. Se i genitori sono entrambi bassetti, difficilmente avranno un figlio più alto di un coetaneo con mamma e papà molto alti. Su questo dobbiamo metterci un po' il cuore in pace, ma quello che invece possiamo fare è controllare l'andamento della crescita del nostro bambino, che ha delle fluttuazioni fisiologiche. Ma quanto cresce in media un bambino? Quanto dovrebbe crescere in un anno? E quante volte è bene misurarlo? Ci facciamo aiutare dal professor Stefano Cianfarani, direttore del Centro di Endocrinologia Pediatrica all'Università Tor Vergata di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, il pediatra durante la visita di controllo riporta i dati del nostro bambino su dei grafici detti centili, che permettono un po' di osservare anche in modo scientifico se la crescita procede regolarmente. Allora, partiamo, se lei è d'accordo, da queste tabelle per capire come possiamo leggerle e interpretarle. Di solito ci aiuta il pediatra, ma no? Cerchiamo di capire che informazioni ci danno e come vanno interpretate. Beh, innanzitutto bisogna dire che queste misurazioni dovrebbero rientrare nel controllo di salute e di routine di ogni bambino, sì. Perché così come il peso, il buon accrescimento ponderale è fondamentale per controllare la salute di un lattante, l'accrescimento staturale è un indicatore di salute del bambino oltre il primo anno di vita estremamente importante, quindi dovrebbe essere sempre misurato, e la frequenza di queste misurazioni dovrebbero essere almeno ogni 6 mesi, quindi 2 volte all'anno ogni bambino dovrebbe essere misurato. Poi chiaramente bisognerebbe misurarlo seguendo una metodica ben precisa, con degli statimetri appropriati, misurati non quindi su quelli volanti spesso agganciati a delle bilance, ma statimetri attaccati su parete, e poi la misurazione riportata sulle curve di riferimento per la popolazione. Noi abbiamo delle curve di riferimento per la popolazione italiana, sono state pubblicate nel 2006, che sono quindi del tutto attendibili, che ci danno delle indicazioni sia riguardo alla statura, sia riguardo al peso, sia riguardo all'indice di massa corporea. E questo è fondamentale, perché sapere su quale centile sta crescendo un bambino ci dice innanzitutto se è un centile normale o meno in assoluto. Sì. In secondo luogo, se è un centile normale in riferimento alla statura dei genitori, che come lei ha anticipato è fondamentale per capire se si sta di fronte a una statura, una bassa statura familiare, fisiologica, o una bassa statura di tipo invece non fisiologico, quindi che potrebbe essere patologica. E cosa vuol dire un centile, essere sul terzo centile, sul piuttosto decimo che... centile? Esatto. Significa che se noi prendiamo 100 bambini normali, sottolineo normali, di quell'età e di quel sesso, e questo bambino che noi abbiamo di fronte è per esempio al decimo centile, e immaginiamo una fila in ordine di altezza di questi 100 bambini normali, lui sarà al decimo posto di questa fila di bambini normali messi in fila in ordine di altezza. Quindi avrà 10 bambini normali più piccoli di lui e circa 90 più alti di lui. Ovviamente, naturalmente c'è una variazione fisiologica nell'ambito di una popolazione, sì, per cui si può variare dal terzo centile, cioè dal terzo posto di questa fila immaginaria, al 97esimo centile, che è il 97esimo posto di questa fila immaginaria, quindi più alti, e nell'ambito di questa variazione fisiologica, quindi normale, non c'è patologia. Invece, professore, ci aiuti lei a capire degli eventuali segnali sospetti? Ci può sembrare, oppure possiamo averne esperienza diretta, che il nostro bambino sia più piccolo e magari vediamo che non è cresciuto quanto ci potevamo aspettare crescesse, magari confrontandolo anche col fratello. Teniamo da parte l'apprensione giustificata di noi genitori, che vorremmo sempre vedere i nostri figli crescere sani, robusti, forti e sempre un po' meglio degli altri. Mi presti il suo occhio clinico. Ai genitori in ascolto, state attenti se il vostro figlio... Ecco, qui mi rilascio alla sua domanda precedente riguardo la velocità di crescita, perché sì, in realtà più che la statura in assoluto, che è un dato statico, è il dato dinamico, cioè di quanto un bambino cresce all'anno, che è l'indicatore più affidabile per la salute di quel bambino. E quindi è importante vedere la velocità di crescita, da qui l'importanza di misurarlo almeno due volte l'anno. Sì. Ora, un bambino normale, diciamo che prima della pubertà e sopra l'età del lattante, perché un lattante cresce anche 20-25 centimetri in un anno, poi si stabilizza grosso modo fino al momento della pubertà intorno ai 5 centimetri all'anno. Sì. E quindi il primo campanello di allarme dovrebbe essere quando un bambino comincia a rallentare e la sua velocità di crescita o si arresta o arriva a un valore del tutto insufficiente intorno ai 2-3 centimetri all'anno. Quindi questo è sicuramente il primo campanello d'allarme che deve far scattare un approfondimento diagnostico e magari una visita specialistica. Quindi la velocità di crescita è l'indicatore più importante della crescita e della salute di quel bambino. Ce ne sono altri, professore? Certamente, l'altro indicatore è quando siamo nella fase puberale o peripuberale, è l'inizio, la data di inizio della pubertà. Sì. Perché se la pubertà inizia troppo presto o troppo tardi, potrebbero esserci sotto dei problemi che determinano questa alterazione del tempo di pubertà. Quindi un bambino o una bambina che cominci la pubertà, quindi cominci a sviluppare il seno prima degli 8 anni, sì, o un bambino che cominci invece a sviluppare prima dei 9 anni, e ricordo che il primo segno di sviluppo del bambino, del maschio, non è la comparsa della peluria pubica, ma è l'aumento di volume testicolare, ecco, questo siamo nell'ambito della anormalità, il che non significa necessariamente patologia, problema, ma che secondo gli standard, almeno quelli europei, una bambina che inizia prima degli 8 anni e un bambino che inizia prima dei 9 anni va comunque indagato al fine di escludere una pubertà precoce o comunque cause, diciamo, gravi di una pubertà precoce. Professore, io la ringrazio, abbiamo dato ai nostri genitori in ascolto delle informazioni, mi sembra utili, nel caso ci sono dei controlli da fare, non allarmiamoci, ma siamo vigili nel controllo. Professore, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, grazie. Grazie a lei, buona giornata, arrivederci. Pronto soccorso. Siamo tornati insieme, oggi puntata dedicata al colon, una parte del nostro intestino in cui si possono formare i polipi o diventare anche sede di neoplasie. In linea con noi abbiamo il dottor Emanuele Meroni, qua in studio con me il collega Alessandro Pellizzari di Starbene. Abbiamo Beppe che ci chiama dalla provincia di Cuneo. Beppe, buongiorno. Beppe? Beppe da Cuneo non ci sente, ma abbiamo Mauro che ci chiama. Beppe? Pronto? No. Mauro? Buongiorno qui. Mauro, dalla buongiorno, provincia di Ferrara. Dalla provincia di Ferrara. Eccoci qua, a lei. Ho 56 anni. 5-6 sì? anni fa sono stato diagnosticato una colite ulcerosa cronica. Sì. E niente, volevo sapere che, siccome ho il papà che è morto di tumore al colon, sì? volevo sapere se questa incidenza è molto maggiore e se prendere ad esempio il mio medico Asacol può avere dei benefici. Grazie Mauro. Dottor Meroni, abbiamo un minuto per rispondere, meno di un minuto per rispondere a Mauro, e poi naturalmente approfondiremo il tema nel corso della certo. nostra puntata. Mauro, certo. colite ulcerosa cronica aumenta... Mauro, certo, Mauro appartiene a quel 15% di persone che hanno un rischio raddoppiato, triplicato rispetto alla popolazione generale, sia perché ha familiarità, sia perché soffre di una malattia che è curabilissima come sì. la colite ulcerosa, ma il rischio è tanto maggiore quanto più è di lunga durata la malattia, quindi dai 10 anni in poi il rischio aumenta, e quanto più estesa è la malattia. Un conto è quando è una pancolite, cioè una colite ulcerosa che interessa tutto il colon, e un conto è quando è una colite ulcerosa che interessa solo il retto, quindi di entità minore. Sulla terapia va avanti, non le riduce il rischio neoplastico, ma la metalazzina cura la colite ulcerosa, e quindi, se vogliamo, indirettamente tiene sotto controllo quello, ma il rischio neoplastico è un po' autonomo rispetto al problema della colite ulcerosa a questo punto. Ritorneremo sui sintomi, dottor Meroni. Ci sono tanti messaggi, ad esempio alcuni ascoltatori mi scrivono sono molto stitica, altri ad esempio mi scrivono potete ritornare sull'argomento della sensazione di non completa evacuazione oppure delle feci non ben formate, ma parleremo soprattutto dei controlli, a partire da che età bisogna farli e quali. Colon, torniamo a lui, abbiamo parlato di fattori di rischio, di persone più a rischio, sicuramente anche lo stile di vita e la dieta hanno una importanza, nel senso che hanno sicuramente un peso che va considerato. Dottor Meroni, ormai è noto che una dieta particolarmente ricca di grassi non è che provochi il tumore del colon, ma in qualche modo è un fattore predisposto. Ponente. Giustissimo, curare la dieta significa fare prevenzione primaria, cioè rimuovere le possibili cause, tra virgolette, dei tumori, mentre fare prevenzione secondaria significa togliere i polipi, rimuovere delle lesioni che già ci sono e che potrebbero sì. diventare tumori. La dieta, lo stile di vita, come giustamente diceva lei, non è che sono da soli in grado di causare il tumore, però possono aumentare il nostro rischio, e quindi io prenderei le regole pratiche che ha pubblicato l'Istituto Nazionale dei Tumori statunitense. Sì. Innanzitutto i grassi animali non dovrebbero rappresentare più del 30% del nostro fabbisogno quotidiano di calorie. Non dovremmo consumare cibi con conservanti, compreso il sale, quindi cibi poco salati o cibi affumicati. Sì. Dovremmo introdurre nella nostra dieta frutta e verdura, la famosa mela al giorno. Mela al giorno si rilaccia anche al servizio che avete trasmesso, non fa mela al giorno, sì. è vero, c'è un fondo di verità. Dottore, comandi. Mi scusi, mi fa tornare indietro ai tempi del militare. Pensavo per la mela al giorno, per i comandi. No, senta, ci sono stati diversi studi che hanno evidenziato che proprio sul tumore al colon uno dei cibi migliori è un vegetale, sono i vegetali della famiglia delle crucifere, praticamente cavoli, cavoletti, broccoli. È vero? Sì, quante ne dobbiamo mangiare alla settimana? Quante porzioni per cambiare un po', per tirare dalla nostra le percentuali? Beh, non farei una dieta monotematica, perché sono solo cavoli, alla fine uno poi diventa verde. Quello non c'è bisogno, secondo me non c'è bisogno di dirlo. Anche se io sono un fanatico, li adoro. Anche a me piacciono. E quindi, no, sono anche gradevoli, perché sono ricchi di vitamine e di antiossidanti, quindi si raccomanda comunque che la quantità di fibre al giorno dovrebbe girarsi intorno ai 25-30 grammi, di cui metà sotto forma di frutta fresca e verdure, l'altra metà di cereali. Quindi, e come sempre è modus in rebus, certo. naturalmente non... Se noi variamo, dottor Meroni, e rimaniamo equilibrati, non si rischia. Giustissimo. Senta, dottor Meroni, io ho piacere di parlare dei controlli, ma prima sottolineiamo per rispondere ai tanti messaggi che sono arrivati. Quando parliamo di modificazione delle abitudini intestinali, aggiungiamo un aggettivo: persistenti. Assolutamente. Ok, certo. Quindi la presenza di sangue o muco nelle feci deve comunque, anche no, se potrebbe essere, non è detto che sia legata alla presenza di un tumore, potrebbe Corretto. Essere tutt'altro, però un saltino dal medico è meglio farlo. Correttissimo, mentre okay. Il primo disturbo non deve indurre il paziente a correre dal medico appena diventa la persona un po' più stitica o sì. Va tre volte al giorno, la presenza di sangue o muco già è qualche cosa che si scosta dalla normalità e quantomeno deve essere riferita al medico, sarà poi certo. Il medico a valutare l'opportunità di approfondire o meno. E a proposito di approfondimenti, quando bisogna iniziare a controllare il nostro colon? C'è un'età che sappiamo a rischio e ci sono certo. Delle campagne di screening. Allora, si dovrebbe incominciare a 50 anni. Parliamo di persone che non hanno familiarità, quindi che hanno un rischio medio, un rischio generico legato all'età. A 50 anni il regalo che dobbiamo farci è quello, non dico di una colonoscopia banalizzando, sì, no? Però... anche perché è un po' atipico come regalo, però prendere coscienza del fatto che noi a 50 anni dobbiamo incominciare a pensare al nostro intestino. Se c'è familiarità... quella fetta di persone che hanno familiari o che hanno già tolto polipi, a quel punto a 40 anni si fa la prima. Sì. Con uno o più familiari di primo grado che hanno avuto tumore all'intestino, dobbiamo incominciare o a 40 anni o 10 anni prima rispetto all'età in cui è stato diagnosticato il tumore nel nostro familiare. Abbiamo... Se c'è ereditarietà addirittura siamo... anche... giovani, persone tra i 10 e i 30 anni che incominciano a fare endoscopie, ma questi sono veramente casi limite. Io andrei a sentire le domande dei nostri ascoltatori. Abbiamo Beppe, Angelo e Silvia. Beppe ci chiama dalla provincia di Cuneo. Chiederei di stare strette nelle domande e al dottor Meroni di darci una risposta breve ed efficace. Beppe, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Siamo Pronto? Qua. Sì, Beppe, la sentiamo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Grazie. Allora, velocemente, io ho perso mia madre 55enne 7 anni fa di tumore al colon. Sì. Io ho 40 anni. Sì. 2 anni fa ho fatto la prima colonoscopia sull'onda emotiva, diciamo. Sì. La domanda è ogni quanto devo ripeterla, visto che sono completamente asintomatico. La seconda domanda velocissima è: mia madre era fumatrice, questo può aver influito nella patologia? Grazie. Grazie a lei, Beppe. Dottor Meroni. Fumo, rischio generico, la seconda colonoscopia la faccia a 45 anni perché comunque sono 10 anni meno rispetto all'età di insorgenza della Lui mamma. Ne ha fatta una prima che aveva 38 anni. Benissimo, l'onda emotiva per cui a 40 anni è giusto. Nei pazienti che sono a maggior rischio come il nostro amico Beppe ogni 3-5 anni poi va rifatta la colonoscopia, a differenza degli altri che non hanno familiarità in cui basta fare ogni 10 anni. Angelo ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Dunque, domande velocissime. 25 anni fa mi sono stati diagnosticati dei polipi intestinali, sì. Li ho tolti, mi sono messo in cura ogni 6 mesi, poi dopo un anno, poi dopo 3 anni ho continuato a fare colonoscopie sempre negative. Allora, le domande sono queste. Primo, siccome Mi scusi Angelo, lei quanti anni ha? Io ho 60 anni. 60 anni. Allora, siccome è un esame molto fastidioso, volevo sapere se c'era qualche alternativa tipo ecografia che desse gli stessi risultati. Un'altra cosa, per forza di cose il mio intestino dovrà sfociare in una neoplasia e poi avendo una figlia di 30 anni, quindi io la prima l'ho diagnosticata da 25 anni fa, sì. Se devo comunque farle fare una colonoscopia identificativa, insomma. Grazie Angelo. Grazie a me, l'ascolto per radio. Grazie dottor Meroni. Una domanda bellissima. Con più sottodomande. Articolata, sì. Bellissima, ovviamente. La figlia sicuramente si è in campana, nel senso che non bisogna fare terrorismo, però se un papà così giovane, in età così giovane, ha avuto già dei polipi, sarebbe bello rivedere l'esame istologico di questi polipi, perché a seconda dell'istologia si ha un rischio neoplastico diverso. Un sì. Conto se sono polipi infiammatori o cosiddetti iperplastici. Un conto se sono adenomi. È ragionevole che il rischio fosse basso anche nel nostro amico sì. Angelo, perché se nell'arco di tutti questi anni non ha più avuto recidive. Mi piace molto che abbia sollevato la questione della fastidiosità dell'esame endoscopico, perché così non dovrebbe essere, punto primo, nel senso che se fatto come dovuto, con una sedazione, come si fa oramai in tutti i centri di un certo livello, l'esame non deve essere fastidioso. Ci sono delle alternative. Nel caso di Angelo forse è meglio optare comunque per una colonoscopia convenzionale, perché la cosiddetta colonoscopia virtuale, che va molto di moda oggi come tutte le realtà sì. virtuali, è una metodica radiologica, è una TAC realizzata con particolari software che ricostruiscono in tre dimensioni il nostro intestino. È una metodica nuova che si sta affermando, devo dire con ottimi risultati in centri che ci si dedicano, centri applicati. Ha una sensibilità scarsa per i polipi inferiore a mezzo centimetro, però si confronta ancora con quello che è lo standard ottimale, che è la coloscopia convenzionale. Ora, in un paziente a bassissimo rischio, magari una persona che ha dei sintomi vaghi, tipo colon irritabile, può valer la pena come primo approccio fare una coloscopia virtuale, questo sono d'accordo. Però, dottor Meroni, mi scusi, nel caso però che si evidenziassero dei polipi, devi fare quella normale. Si torna a quella tradizionale. Assolutamente. E poi bisogna pagarla, cara, è vero o no? La cara o meno dipende dove va. Però bisogna pagarla, voglio dire, ci dunque, sono prezzi. Al di là della battuta, quando si parla di screening, no. Dal 96 il Ministero della Sanità ha fatto sua l'iniziativa dello screening e nelle regioni, nei programmi di screening fatti sulla popolazione, questi esami sono gratuiti. Siamo tornati insieme, in linea con noi abbiamo il dottor Meroni, qua Alessandro Pellizzari di Star Bene Studio con me. E il nostro consiglio di lettura, è arrivato il momento. Grazie all'iniziativa di Internet Book Shop, oggi potete ricevere a casa il libro dal titolo Ho il cancro e non ho l'abito adatto, di Cristina Piga, Mursi Editore, un libro di cui avevamo parlato proprio in trasmissione insieme all'autrice. Se è un libro interessante che lo consiglio anche al dottor Meroni. Per partecipare a questa iniziativa dovete essere molto rapidi, essere il primo ascoltatore a raggiungere il nostro indirizzo di posta elettronica, che vi ricordo è esserebenessere@radio24.it. dovete mettere il titolo del libro, i vostri recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Dottor Meroni, Alessandro Pellizzari voleva sottolineare la sedazione durante la coloscopia, sì, che può sicuramente rendere questo esame meno antipatico. Perché le lettrici, le nostre lettrici, quindi immagino anche le ascoltatrici e gli ascoltatori, hanno un terrore sacro della coloscopia, perché sentono dire che in certi casi non si riesce a finire. Invece dovrebbe esserci una buona notizia, lei forse l'accennava prima: adesso c'è questa leggera anestesia che dura giusto il tempo dell'esame, uno dorme praticamente e poi si sveglia che è tutto finito. O sbaglio, si sta diffondendo questa pratica, perché è importante, perché la gente evita o rimanda la coloscopia perché ha paura di sentire male. Certo. Dottor Meroni, dunque, buona pratica è fare gli esami con una sedazione cosiddetta cosciente, cioè si inietta in vena un farmaco che dà un leggero intontimento, e questo nella stragrande maggioranza dei casi, salvo situazioni anatomiche particolari, oppure lei giustamente accennava alle pazienti, le donne che magari hanno avuto problemi di interventi ginecologici, per cui possono esserci delle aderenze, questo magari può essere comunque non sufficiente, un po' fastidioso. Diversa è la situazione in cui viene esercitata una sedazione profonda, quindi non cosciente ma profonda, con un prodotto che invece maneggiano gli anestesisti, che non possiamo maneggiare noi endoscopisti, noi gastroenterologi, per cui nella sala deve esserci un anestesista, e giustamente il paziente si addormenta all'inizio e si sveglia alla fine. È un po' più complesso organizzarlo, ci vuole l'anestesista. Ma questo lo potete decidere prima, giusto? Assolutamente, con un colloquio, certo, stabilire un po' qual è la circostanza che lo richieda. Andiamo velocemente da Silvia, che ci chiama da Bergamo, perché poi entriamo in sala operatoria. Silvia, buongiorno. Sì, buongiorno. In parte è già stata risposta a questa domanda. Comunque, mio padre è stato operato circa 10 anni fa per un adenocarcinoma con poliposi, poi negli anni successivi. Il chirurgo ha consigliato a noi figli, al compimento dei 45 anni, di eseguire una colonoscopia. Io lì ho il dovere, l'ho eseguita. Mi hanno asportato 2 polipi, anche se piccoli di 1 centimetro, benigni, ma comunque c'erano. Quindi, ecco, volevo chiedere se quando rifare la prossima, e poi se il dolico colon può essere la causa della colonscopia dolorosa, perché nel mio caso è stata veramente dolorosa, anche se poi sono riusciti a portarla a termine. Grazie. A lei, Silvia. Dottor Meroni? Dunque, tra quanto rifare la prossima colonscopia dipende dall'esame istologico completo dei 2 polipi asportati. Il dolico colon può essere una causa di colonscopia dolorosa. E allora, abbiamo parlato di polipi. Quelli piccoli vengono asportati durante la colonscopia, ma se una volta asportato il polipo, questo risulta degenerato, bisogna passare la mano al chirurgo, che è in linea con noi, il professor Ermanno Lea. Buongiorno. Buongiorno a lei. Direttore della struttura complessa della chirurgia del colon retto dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Abbiamo in linea il dottor Meroni, so che vi conoscete. Sì. Se volete salutarvi, non so. Un saluto radiofonico. Professore, la chirurgia ha cambiato la conoscenza e la prognosi del tumore del colon. Insomma, il bisturi per questo tipo di tumore ha fatto davvero la differenza. Sì, direi che il primo dei tumori, che è dei grandi killer, il secondo tumore per incidenza dopo i tumori del polmone, che è stata, ha subito appunto un cambiamento di rotta sia dal punto di vista chirurgico che dal punto di vista di miglioramento di tutte le recidive, le cose che successive, solo per merito della chirurgia. Che cosa avete capito in questi anni grazie al bisturi? Abbiamo studiato le vie di diffusione della malattia che non si adeguavano assolutamente alle grandi demolizioni del passato, che sembravano grandi interventi deturpanti la persona fisica e psichica, ma davano un'alta incidenza di recidive e di metastasi. Le conoscenze dell'andamento della malattia ci hanno portati a definire una chirurgia apparentemente più piccola, ma molto più delicata, che conservava l'integrità psicofisica, ma ci dava una radicalità e un bagaglio di conoscenze per cui, per darle in sintesi un numero, sì, siamo passati dal 30% delle recidive del passato a 2 anni all'8%. Pur con interventi meno demolitivi? Sicuramente sì, demolitivi vuol dire conserviamo la funzione, cioè non portiamo via lo sfintere, parliamo per i tumori del retto basso ovviamente. Senta, quindi professore, è possibile oggi risparmiare al paziente il tanto temuto sacchetto per asportare tumori del retto basso? Direi che il rapporto si è totalmente invertito, cioè il sacchetto purtroppo è relegato a particolarissimi tipi di tumore o purtroppo alla trascuratezza e al ritardo di una diagnosi, lì purtroppo è chiaro che i discorsi possono essere molto diversi, ma oggi per un tumore in una fase iniziale di un primo, secondo stadio anche, e anche col terzo stadio iniziale, direi che sacrificare lo sfintere direi che è diventata un'operazione inutile. Le dico solo che prima le leggi scientifiche parlavano di avere un margine di 5 centimetri al di sotto del tumore di tessuto sano. Adesso? Noi abbiamo ratificato scientificamente con il lavoro che abbiamo fatto, che ho fatto in questi anni, che basta da 1 a 2 centimetri, quindi lei capisce che basta solo rispettare questa differenza per non sacrificare più tessuti innocenti e che erano la causa delle grandi demolizioni del passato. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, perché abbiamo affrontato un argomento molto delicato, ma direi che grazie alle informazioni che lei ci ha dato possiamo guardarlo con meno paura. Grazie quindi al professor Leo. Dottor Meroni, salutiamoci con una raccomandazione, un invito ai nostri amici da casa, uomini e donne. Uomini e donne, mi raccomando, attenzione alla prevenzione, perché di tumore si guarisce sempre, a maggior ragione tumore dell'intestino, perché la diagnosi precoce è importante, ma la prevenzione ancora di più. Prevenzione, che vuol dire dieta, vuol dire stile di vita e poi naturalmente e controlli. Prevenzione, esatto, controlli endoscopici, poi casomai si faranno consigliare se colonoscopia, retto sigmoido, sangue occulto, lo standard è la colonoscopia. In una battuta, buona colonoscopia a tutti. Grazie dottor Meroni. Grazie per essere stato con noi anche ad Alessandro Pellizzari. Continuano i festeggiamenti per i 30 anni di star bene. Certo. Cerchiamo di stare bene tutti. Noi ci proviamo tutti i mesi con tanti consigli e tante informazioni. Alessandro, noi ci sentiamo il prossimo mese. Certo. Per un nuovo tema, una nuova avventura. Invece con gli amici da casa noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Ricordatevi l'indirizzo della nostra redazione per qualsiasi dubbio, domanda, critica, complimento magari. Essere benessere @radio24.it. A domani, buona giornata da Nicoletta Carbone.